il professore Misticò, dottore, via, si è specializzato in una tesi sopra le relazioni, la figura di Cristo nella tradizione musulmana. Stasera ci parlerà accennando alla tradizione musulmana in alcuni documenti manoscritti della Biblioteca Vaticana. Attualmente lui coopera con la Università di Perugia alla rivista Islam, una rivista italiana, si pubblica a Roma, sul mondo musulmano, e collabora con l'Accademia Musulmana di Roma. La parola al dottor Luciano. Grazie. Desidero innanzitutto ringraziare padre Giulio Bassettisani per avermi invitato e il direttore del... Desidero innanzitutto ringraziare padre Giulio per avermi invitato, così come il direttore dell'istituto. Allora, l'argomento di oggi, di cui tratterò, sarà quello dei miracoli attribuiti dalla tradizione popolare musulmana, quindi dal sentimento popolare musulmano, miracoli attribuiti ad Isa, che è il nome coranico di Gesù. La trattazione della visione complessiva della figura di Isa richiederebbe molti più volumi, riguardando, comprendendo molti aspetti, fra i quali il suo posto, diciamo, nella rivelazione, il problema del rifiuto della sua divinità e il problema della crocifissione. Questi sono i problemi particolari, quindi, e poi ve ne sono altri per i quali si è lungamente discusso, e comunque un problema che non è stato molto particolarmente trattato è stato quello dei miracoli. L'intento è quello di esaminare e mostrare come e in che misura la fusione delle informazioni riguardo a Isa presenti nel Corano con le tradizioni apprese principalmente dalle comunità cristiane ed ebraiche abbia contribuito ad esaltarne nei racconti della tradizione popolare islamica le caratteristiche di taumaturgo e facitore di miracoli. Per questo lavoro mi sono servito di parti di 6 manoscritti arabi islamici custoditi nella Biblioteca Vaticana. Questi manoscritti coprono un periodo che parte dal IX secolo per arrivare al XII secolo dell'Egira. Aumentate di 600 anni e otterrete il periodo corrispondente cristiano. Al IX secolo risalgono il manoscritto 723 del Fondo Vaticani Arabi, che è una delle due storie di profeti di Sa'labi, scrittore dell'undicesimo secolo dell'era cristiana, esaminato in questo lavoro, ed il manoscritto 161 del Fondo Borgiani Arabi, contenente una storia di Isa che parla con il cranio. Accenno brevemente, è una storia, un racconto in cui si dice che Isa incontrò un cranio per strada e con il permesso di Dio lo fece parlare, lo interrogò e il cranio gli parlò di sé, di come era, e gli parlò di quello che stava vivendo nell'aldilà. Al XII secolo risale invece il manoscritto 1191 del Fondo Vaticani Arabi, contenente l'altra storia di Isa e il cranio. Per quanto riguarda le ipotesi sulla provenienza, si può solo dire che il manoscritto Barberiani Orientali 79 e Borgiani Arabi 161 hanno rispettivamente scrittura magrebina e magrebina spagnola. Per gli altri manoscritti non si può fare nessuna ipotesi circa la provenienza, non ci sono appigli di nessun tipo. Quindi, riassumendo, vi sono 2 Qisas al-Anbiya, cioè storie di profeti di Sa'labi, che sono sostanzialmente identiche al testo a stampa che esiste, una Qisas al-Anbiya, quindi sempre storie dei profeti, di Kisai, altro autore narratore di cui non si conosce esattamente il periodo storico in cui visse, si sa semplicemente che i primi manoscritti compaiono nel VII secolo dell'Egira. Più ricca e completa rispetto al testo a stampa, una raccolta di Qisas anonime e 2 Hadith Isa ma'al Jumjuma, cioè racconti di Isa con il cranio, sono anch'essi anonimi. I testi in esame contengono, oltre ai racconti più o meno ampliati dei sei tipi di miracoli che vengono accennati nel Corano, dico brevemente, l'aver parlato nella culla, l'aver fatto vivere uccelli d'argilla, l'aver guarito i malati, l'aver riportato in vita i morti, l'aver potuto conoscere quello che avveniva all'interno delle case, l'aver fatto discendere dal cielo una tavola imbandita, questi racconti bisogna immaginare che sono semplicemente accennati nel Corano, non vi è una narrazione estesa, ne è riferito semplicemente il compimento, si dice ha fatto questo, ha fatto quest'altro, ma non vi è una narrazione come quella che può aspettarsi chi ha letto il Vangelo. E vi sono quindi altre storie, oltre a queste coraniche, questi miracoli riferiti nel Corano, altre storie per le quali solo a volte è stato possibile risalire alla fonte prima. Per comodità di studio, i racconti sono stati suddivisi in 10 gruppi, secondo il tipo di miracolo narrato. I gruppi sono: Isa parla nella culla, fa vivere gli uccelli di Creta, tinge stoffe in più colori con un unico colorante, dimostra sapienza da adulto e conosce il passato, il presente e il futuro, trasforma l'acqua o altro in altre sostanze, guarisce infermi di vario genere, cammina sull'acqua, conversa con animali o oggetti inanimati, richiama in vita i morti, fa scendere dal cielo una tavola imbandita. Tale classificazione, se in alcuni casi individua e distingue eventi prodigiosi ben definiti e racconti molto simili per i fatti narrati e i personaggi menzionati. Faccio un esempio, il caso di Isa parla nella culla, oppure tinge stoffe in più colori con un solo colorante, dove gli autori riprendono storie narrate nel Vangelo arabo sull'infanzia del Salvatore, un Vangelo apocrifo. In altri casi, tale classificazione è invece necessariamente molto più vaga. Faccio un altro po' di esempi. Richiama in vita i morti, oppure conversa con animali o oggetti inanimati, in quanto i fatti e i personaggi sono dei più vari. I differenti tipi di miracoli non compaiono tutti nello stesso tempo, nello stesso testo. Quelli più ricchi, nel nostro caso, sono i due manoscritti di Salabi, che, pur non ordinando sempre i racconti in ordine cronologico, forniscono una biografia della vita di Isa che, per quanto riguarda questo studio, parte dal momento in cui neonato difende la madre dalle accuse del suo popolo. Narra quindi della fuga in Egitto per sfuggire agli israeliti, come si legge nel seguente racconto. Racconta Sedi. Quando Isa era a scuola, sapeva dire ai compagni quale attività svolgevano i loro padri e diceva a ciascuno: affrettati, poiché la tua famiglia ha mangiato questo e questo e ti hanno lasciato questo e questo, mentre loro mangiano. Il ragazzo correva dalla sua famiglia e piangeva finché non gli davano quella cosa. Gli chiedevano: chi ti ha informato di ciò? Quello rispondeva: Isa. Allora impedirono ai loro bambini di fare i contatti con lui e dissero loro: non giocate con questo mago. E li riunirono in una casa. Venne Isa a cercarli, ma gli dissero: non sono qui. Disse: chi c'è in questa casa? Risposero: dei maiali. Allora Isa disse: tali diventino. E quando fu loro aperto, ecco, erano dei maiali. Diffusesi la notizia fra la gente, gli israeliti si prefissero di ucciderlo, ma quando sua madre temette per lui, lo portò su un asino ed uscì fuggiasca verso l'Egitto. Al periodo della fuga in Egitto, Isai, invece, fa risalire quest'altro prodigio. Uscirono una notte da Gerusalemme e mentre erano per la strada, ecco un leone, fermo su di essa. Ebbero paura di lui, ma Isa disse: lasciatemi andare da lui. Quando avanzò disse: o leone, cos'è questa tua sosta qui? Rispose: sosto tutto il giorno per un toro che mi passa davanti ogni giorno e che devo prendere. Disse Isa: questo toro è di gente povera che non ha altro che lui. Invece, va nel deserto tale, vi troverai un cammello morto, mangiane e lascia questo ai suoi padroni. Il leone partì verso di esso. Salabi continua parlando del viaggio alla volta di Nazareth, dopo la morte di Erode, e quindi gli ispirò di apparire in pubblico. Si legge infatti, racconta Wahab, quando morì il re Erode, 12 anni dopo la nascita di Isa, Dio Altissimo rivelò a Maria informandola della morte di Erode ed ordinandole di tornare con Giuseppe il falegname in Siria. Allora Isa e sua madre tornarono ed abitarono sul monte Hebron in un villaggio chiamato Nazareth e da questo sono chiamati Nazareni. Isa apprendeva in un'ora le conoscenze di un giorno e in un giorno le conoscenze di un mese, in un mese le conoscenze di un anno. Quando compì 30 anni, Dio Altissimo gli ispirò di apparire in pubblico, di chiamare la gente, di dar loro esempi, di curare i malati, gli infermi, i ciechi, gli ossessi, di scacciare i demoni, di sottometterli. e li scacciava, così che questi morivano per timore di lui. Fece ciò che Dio gli aveva ordinato e la gente lo amava, aveva simpatia per lui, lo avevano fra loro volentieri. Aumentavano i suoi seguaci e diventava famoso. Talvolta si riunivano presso di lui in un'ora 50.000 malati ed infermi. Chi di loro poteva arrivare a lui arrivava, e per chi non aveva la forza di fare ciò, essa andava da lui. Li curava con la preghiera, condizione che avessero fede, ed era la sua invocazione che guariva i malati e con essa risuscitava i morti. L'autore giunge così all'episodio della discesa della tavola imbandita, che viene arricchito di numerosi particolari rispetto alla narrazione coranica. L'ultimo prodigio narrato nel testo di Salabi è la storia che potremmo intitolare Il principe, il marito e la moglie infedele. In essa, essa richiama in vita una donna che però, invaghitasi di un principe, tradisce il marito. Essa, per punirla, la restituisce alla tomba. Nei vari manoscritti, la successione degli eventi prodigiosi è a grandi linee simile, anche se, ripeto, per la maggior parte i vari miracoli compaiono solo in alcuni dei manoscritti. Talvolta l'autore fornisce indicazioni per una collocazione temporale dell'evento, come Saladi, che colloca il prodigio della difesa da parte di Isa, della madre, a 40 giorni. Cioè, parlò in difesa della madre davanti agli israeliti. La spiegazione delle lettere dell'alfabeto a 9 mesi, va a scuola e il maestro gli chiede di spiegargli le lettere dell'alfabeto e lui dà un significato ad ogni lettera. Riferiti però a Dio, riferendoli a Dio, cioè la grazia di Dio, la gloria di Dio, e la sua potenza, e collegando l'iniziale della spiegazione con la lettera che sta spiegando. Poi quindi la trasformazione dell'acqua in vino nella casa del dignitario egiziano all'età di 12 anni, come pure a 12 anni è posto il ritorno dall'Egitto. Il problema della collocazione cronologica esiste specialmente per il miracolo dei morti richiamati in vita, che i vari manoscritti fanno risalire nella maggior parte dei casi al periodo seguente ritorno dall'Egitto. Leggiamo infatti nel manoscritto di Efesas Anonime: Eisa disse agli apostoli: chi volete che risusciti per voi? Risposero: vogliamo che risusciti per noi Sem, figlio di Noè. Andarono con lui ad un vecchio sepolcro. Eisa si fermò presso di esso e disse: o proprietario del sepolcro, alzati per la potenza di chi fa rivivere le ossa che sono decomposte. Lo chiamò 3 volte ed ecco il sepolcro spaccarsi ed un uomo alzarsi da esso dicendo: al tuo servizio, spirito di Dio, sua parola e suo inviato. Gli chiese Eisa: chi sei tu? Rispose: o spirito di Dio, io sono Abele, mio fratello Cabil mi ha ucciso. Disse Eisa: non volevo te, o terra, riprendi il tuo abitante. Allora si livellò la sua tomba per la potenza di Dio Altissimo. Andarono con lui ad un'altra tomba, gridò ed ecco un altro uomo, si alzò da essa dicendo: ai tuoi ordini, o spirito di Dio e sua parola. Gli chiese allora Eisa: chi sei tu che abiti la tomba? Rispose: sono Sem, figlio di Noè. Gli disse: ti chiedo, in nome di Dio, come hai trovato la morte? Rispose: come un ramo con molte spine gettatomi sui visceri, strappato da un uomo molto forte che prese ciò che prese e lasciò quel che lasciò. Disse: Sem, figlio di Noè, è morto giovane, e questo è un vecchio dalla testa e dalla barba bianca. Non ci fu prima di Abramo una persona che aveva i capelli bianchi. Gli chiese: o Sem, ti chiedo, in nome di Dio Onnipotente, perché si sono imbiancati i tuoi capelli? Rispose: perché con il primo grido si rivoltarono le mie ossa nella tomba e lo spirito soffiò in me. Poi, quando sentì il secondo grido, vedetti che Israfil avesse soffiato nella tomba per resuscitare coloro che giacevano nelle tombe, e si imbiancò la mia testa per lo spavento. Non ho mai cessato di sentire il dolore della morte da quando Dio mi ha fatto morire ad oggi. Oh, se tu chiedessi a Dio di restituirmi alla tomba come ero. Sem raccontò ciò che vollero i figli di Israele. Quando terminò il suo racconto, Isa lo restituì alla sua tomba e restituì la terra su di lui, e fu l'ultimo letto per lui. Per quanto riguarda le storie dei morti richiamati in vita, le possiamo distinguere in 4 tipi, a seconda del personaggio risuscitato, cioè il compagno di giochi, Sem, figlio di Noè, Lazzaro, la sposa infedele. Talvolta, nel corso dell'esposizione della storia, vengono riportati in un inciso taluni particolari sulla storia stessa provenienti da un altro referente che viene indicato. Accade anche, come nel caso del racconto della tavola imbandita, che la narrazione riportata nel manoscritto sia il risultato della giusta posizione dei vari racconti riportati da vari referenti. La discesa della tavola nel Corano non ha propriamente la fisionomia di un miracolo, che invece acquista nei racconti dei manoscritti. Da uno dei manoscritti di Salabi stralcio questo racconto. Racconta Ada ibn Saib, da Zaidan e Mesrah. Raccontano, quando scese la tavola per i figli di Israele, si succedette per loro ogni specie di cibo, tranne la carne. Racconta Atiyat al-Awfi, scese dal cielo un pesce che aveva il sapore di ogni cosa. Racconta Qatada, come vedete, accosta narrazioni di vari autori. C'era una tavola che scendeva dal cielo e su di essa vi era frutta del paradiso. Scendeva su di loro mattino e sera, poiché era come la manna che scendeva per i figli di Israele. Disse Iman ibn Ziyad, scendeva su di loro e mangiavano da essa quelli che volevano e quando volevano. Disse Wahb ibn Munabbih, Dio fece scendere una pagnotta di orzo e pesci. Fu chiesto a Wahb, cosa significava ciò per loro? Disse, nulla. Ma Dio ridusse per loro la felicità. Erano una gente che mangiava, poi usciva, altri salutavano, quindi mangiavano. Mangiarono finché mangiarono tutti e ne avanzò. Disse Gabel Ahbar, discese dal cielo una tavola capovolta, la facevano volare gli angeli fra il cielo e la terra. Su di essa vi era ogni cibo, tranne la carne. Racconta Muqatil e Al-Kalbi, Dio esaudì Isa ma disse, io faccio scendere per voi come avete chiesto, ma chi mangia di tale cibo e poi non crede, io farò di lui un esempio e una maledizione per quelli che verranno dopo. Dissero, siamo contenti. Allora chiamò Simon Pietro, che era il migliore degli apostoli. Chiese, hai con te del cibo? Rispose, sì, ho due piccoli pani e sei pesci. Disse, dammeli. E Isa li spezzò in piccoli pezzi, poi disse, sedetevi sul prato, a gruppi di 10. E Isa si alzò e invocò Dio Altissimo che lo esaudì e scese la benedizione in forma di pane autentico e autentico pesce. Poi Isa si alzò e cominciò a gettare ad ogni gruppo quanto le sue dita producevano. Poi disse, mangiate in nome di Dio. Allora il cibo prese ad aumentare finché arrivò la loro schiera. Mangiarono quanto volle Dio e ne rimase. Erano 5.000 persone ed oltre. Disse tutta la gente, affermiamo che tu sei il servo di Dio e il suo inviato. Poi chiesero un'altra volta ed un'altra volta ancora. Allora fece scendere pane e pesce, 5 pagnotte e 2 pesci, e fece con essi quanto fece la prima volta. Quando tornarono ai loro villaggi, diffusero questo racconto, e rise la gente di loro, chi non aveva assistito, e dissero, guai a voi, ha stregato i vostri occhi. A chi Dio Altissimo volle il bene, lo confermò nelle sue conoscenze, e coloro che Dio volle fossero discordi, tornarono alla loro miscredenza e furono tramutati in maiali. Non vi era fra loro bambino o donna. Rimasero così 3 giorni, poi morirono. Non si moltiplicarono, non mangiarono, non bevvero, e così ognuno dei trasformati. Fra tutti i testi da me consultati, anche al di fuori dei manoscritti oggetto di questo studio, i testi di Salabi riportano un racconto della tavola imbandita che è lungo più del doppio rispetto agli altri. Inoltre, questo racconto è presente nel manoscritto di Kisai, ma non nel testo a stampa. In taluni casi, nel corso di un solo racconto, vengono attribuiti ad Isa e narrati altri prodigi, anche di genere diverso fra loro, come quelli che compie alla presenza del compagno di viaggio per fargli confessare di aver mangiato un pane in più. Sempre Salabi riferisce. Raccontò Wahb ibn Sanah che Isa si mise in viaggio. Lo seguiva un ebreo che aveva 2 pani ed Isa aveva un pane. E Isa gli chiese, mi associ al tuo pasto? Rispose, sì. Ma quando vide che Isa non aveva che un solo pane, si pentì. Quando Isa si alzò per la preghiera, il suo compagno andò e mangiò un pane. Isa terminò la sua preghiera, tornò, presero il cibo. E Isa disse al suo compagno, dov'è l'altro pane? Rispose, non c'era che un solo pane. Così Isa e il suo compagno mangiarono un pane ciascuno, poi si allontanarono. Incontrarono un cieco ed Isa disse, pensi che se io ti curo affinché Dio ti faccia vedere, tu lo ringrazierai? Rispose, sì. E Isa gli toccò gli occhi ed invocò Dio Altissimo, ed eccolo sano. Disse Isa al suo compagno, per colui che ti ha mostrato il cieco guarito, quanti erano i pani? Rispose, in verità non c'era che un pane. Allora essa non gli rispose. Ed ecco che passarono presso un paralitico. Essa gli chiese: «Pensi che se ti guarisco e ti risana Dio, gli sarai grato?» Rispose: «Sicuro». Allora invocò Dio ed eccolo sano, in piedi sulle gambe. Disse il compagno di Isa: «Non ho mai visto nulla di simile». Disse a Isa: «Per colui che ti ha fatto vedere la guarigione del cieco e del paralitico, chi aveva il terzo pane?» Quello giurò che non aveva che un pane. Allora Isa tacque e si allontanò finché arrivò ad un fiume tumultuoso, travolgente. Disse Isa: «Non vedo né ponte né barca. Prendimi alla vita e metti i piedi dove metto il mio». Fece così e camminò sull'acqua. Disse: «Per colui che ti ha fatto vedere il cieco guarito e ha fatto camminare il paralitico e ti ha sottomesso l'acqua, chi ha preso l'altro pane?» Disse: «In verità non c'era che un solo pane». Allora Isa tacque, proseguì ed ecco due gazzelle che pascolavano. Isa ne chiamò una che si avvicinò, la uccise, la arrostirono e la mangiarono. Poi Isa colpì i resti col bastone dicendo: «Resuscita col permesso di Dio Altissimo». Ed ecco la gazzella correva. Disse l'ebreo: «Gloria a Dio». Allora Isa chiese: «Per colui che ti ha fatto vedere questo segno, chi ha preso il pane?» Disse: «Giuro in nome di Dio, non c'era che un solo pane». Isa tacque e partì. Passò vicino ad un proprietario di buoi. Isa gridò: «O proprietario dei buoi, macella per noi fra i tuoi buoi questo vitello». Rispose: «Manda il tuo amico a prenderlo». L'ebreo andò e tornò. Isa lo uccise, lo arrostì, mentre il padrone dei buoi osservava. Disse Isa: «Mangia e non rompere nessun osso». Quando finirono, ne gettò una parte nella pelle, poi la colpì col bastone dicendo: «Alzati, col permesso di Dio». Allora il vitello si alzò muggendo. Isa disse: «O padrone dei buoi, riprenditi il tuo vitello». Disse: «E viva te, chi sei?» Rispose: «Sono Isa, figlio di Maria». Disse: «Isa il mago», e scappò via, allontanandosi da lui. Il resto della storia ve lo risparmio. Nel raccontare i miracoli menzionati nel Corano, preoccupazione costante che traspare dalla lettura dei testi è la conferma della veridicità di quanto narrato. Per far ciò, il narratore fa ricorso alla citazione dei versetti. Altri riferimenti a passi del Corano li ritroviamo nell'esposizione della visione escatologica islamica che ci viene data nel corso della storia precedentemente raccontata della resurrezione di Sem, come ricordate, riferimento a Israfil, e in quelle di Isa il cranio, di cui adesso do alcuni cenni, stralciati dal manoscritto del XII secolo. Racconta il cranio ad Isa: «Rimasi in agonia e piombò su di me l'angelo della morte in una forma come non lo avevo visto finora. Si staccò il mio cuore e sentì una solitudine immensa. Gli angeli colpivano la mia pancia e la schiena con una frusta di fuoco. Se avessi visto, o spirito di Dio, l'angelo della morte aveva sei facce, una davanti, una dietro, una a destra e una a sinistra, una faccia sopra la testa e una sotto. Nella sua destra una lancia, nella sua sinistra una lancia. Mise la lancia alla mia gola e mi diede da bere la bevanda della morte. Allora uscì il mio spirito». Disse Isa: «Non sapevi cosa faceva l'angelo della morte con quelle facce?» Rispose: «Con la prima faccia afferrava le anime del popolo di Muhammad, con la seconda le anime dei profeti. Quanto alla faccia che era sopra la testa, afferrava con essa le anime degli angeli. Quanto alla faccia che era alla sua sinistra, afferrava con essa le anime dei cristiani. Quando alla faccia che era sotto di lui, con essa afferrava le anime dei jinn. La sua testa era nel settimo cielo, e di piedi ai confini della terra e del mondo, il continente ed il mare fra gli occhi, e l'Oriente e l'Occidente». La narrazione prosegue con il racconto dell'interrogatorio da parte di Munkar e Nakir, due angeli. «Mi fecero sedere con violenza e mi parlarono con ironia. Mi dissero: rispondi alla chiamata di Dio, o negatore della bontà di Dio e della sua eccellenza. E mi dissero: vivi col permesso di Dio eccelso e sommo. Mi dissero: chi è il tuo Signore? Dissi per timore verso di loro: voi siete il mio Signore. Mi dissero: hai mentito, o nemico di Dio, o negatore della bontà di Dio. Poi Munkar mi batté e stava per staccare le mie ossa. Poi scesi alla settima terra ad un fuoco infernale. Risalii al cielo. Mi dissero: cosa pregavi? Dissi loro: mio padre aveva una certa religione e lo seguì nel culto del fuoco e della luce, fra le tante creature di Dio, Altissimo Signore dell'Universo». Dopo di ciò abbiamo una descrizione delle voragini infernali, sempre nello stesso racconto. Disse l'angelo: precipitate questo dannato al settimo strato dell'inferno, il cui combustibile sono gli esseri umani e le pietre. Su di esso vi sono angeli insensibili, duri, non si ribellano a Dio e a ciò che ordina loro. Fanno ciò che la gente teme. Poi mi portarono al secondo strato, che mangia la carne e beve il sangue e macina le ossa. Poi al terzo, dove apparvero delle creature con cui Dio era adirato. Mi portarono al quarto strato, in cui vi erano donne appese per le mani, che imploravano aiuto ma non erano aiutate. Gridavano e nessuno rispondeva. Disse all'angelo mio custode: cosa hanno fatto queste donne nella vita terrena? Rispose: queste sono quelle che uccisero i loro figli senza il permesso dei loro mariti, peccavano di sodomia e commettevano adulterio con altri dei loro mariti. Dio le punì con questa punizione. Mi portarono al quinto strato ed ecco vidi un albero di fuoco con appesa ai rami una moltitudine di persone che mangiavano di quei frutti e le loro bocche erano di fuoco e dicevano: questo è ciò che abbiamo procurato nelle nostre anime. Procurato alle nostre anime. Dissi all'angelo mio custode: che peccato hanno commesso costoro? Disse: costoro sono quelli che mangiavano le ricchezze degli orfani ingiustamente. Dio eccelso e sommo diede loro da mangiare di quest'albero, che è chiamato albero di Zaccum. Poi mi portarono al sesto livello, e in esso trovai della gente che conoscevo nella vita terrena. Quando mi videro mi dissero: o infelice, cosa ti ha fatto entrare qui? Dissi: ciò che ha fatto entrare qui voi, dissero, è stata la malvagità delle nostre azioni. Dissi: anche per me è stata la malvagità delle mie. Poi mi portarono al settimo livello, dove ecco apparire dei dannati che invocavano aiuto e non ne ricevevano, urlavano e non ricevevano risposta. Chiesi al mio angelo custode: chi sono e cosa dicono? Disse: dicono: o angelo, accresci il nostro castigo e facci uscire da questa gente. Per quanto riguarda questo racconto di Aisa che conversa con il cranio, il testo da cui ho stralciato questo brano è il più lungo finora reperito ed ha alcune somiglianze con un racconto analogo tradotto da Levi della Vida, racconto però più breve della metà. L'altro manoscritto, il Borgiani Arabi 161, è identico ad un manoscritto anonimo della Biblioteca di Madrid tradotto da Asim Palacios, illustre islamista. Coerentemente al ruolo dell'Islam, Isa è un inviato di Dio, così come egli stesso dice durante la difesa di sua madre. Egli funge da mediatore fra Dio e gli uomini al momento del compimento del miracolo, che avviene sempre dopo l'invocazione e col permesso di Dio. A questo proposito, oltre a quelli già citati, prendo ad esempio il seguente testo di Salabi. Si racconta che egli partì in una delle sue peregrinazioni avendo con sé uno degli apostoli, basso di statura, che era inseparabile da lui. Quando Isa arrivò al mare, disse con rettitudine e ferma fede: in nome di Dio, e camminò sulla superficie dell'acqua. L'uomo basso disse con rettitudine e ferma fede: in nome di Dio, e camminò sulla superficie dell'acqua. Allora fu preso da stupore e disse: costui è Isa, lo spirito di Dio che cammina sull'acqua, e io pure cammino sull'acqua. Allora sprofondò in essa. Chiamò in aiuto Isa, che lo afferrò e lo tirò fuori. Gli chiese: cosa hai detto? Allora lo informò di quello che aveva pensato ed Isa gli disse: ti sei messo in un posto che non è quello nel quale Dio ti aveva messo. Dio ti ha detestato per ciò che hai fatto. Pentiti davanti a Dio. L'uomo si pentì e tornò al posto in cui Dio lo aveva messo. Anche la modalità di esecuzione della preghiera, che si svolge secondo il costume musulmano, sembra indicare, anzi indica, il desiderio di individuare in Isa un precursore e annunciatore dell'Islam. Per quanto riguarda il problema delle fonti a cui i narratori hanno attinto, vi sono alcuni racconti e situazioni riconducibili con sicurezza, nella loro interezza, a corrispondenti narrazioni della tradizione cristiana o ebraica. Fra questi, la difesa della madre, il dar vita ad uccelli d'argilla, il tingere stoffe in vari colori con un solo colorante, lo spiegare il significato delle lettere dell'alfabeto ed altri ancora. Queste hanno avuto la loro fonte ispirativa nei brevi racconti dei testi apocrifi ed in particolare nel Vangelo arabo sull'infanzia del Salvatore. In altri casi, solo per alcuni elementi del racconto si trovano dei riscontri. È il caso del racconto di Isa l'ebreo, letto in precedenza, nel quale si riferisce di animali riportati in vita. Questo particolare potrebbe essere accostato ad un prodigio attribuito ad un monaco, Aaron di Saruj, morto nel 333, che avrebbe richiamato in vita due piccioni che erano stati cotti. Di un pesce richiamato in vita si parla invece nella storia della tavola imbandita. Non è un pezzo che non ho letto. Questo particolare potrebbe essere ricondotto ad una tradizione apocrifa secondo la quale San Pietro riportò in vita una ringa immergendola nell'acqua. Infine, per la storia di Isa il cranio, Un miracolo analogo è attribuito all'abate Macario Egizio, vissuto nel IV secolo. Per concludere, anche se a tutta prima nei racconti si evidenzia la ricerca del fantastico, del prodigioso e dello stupefacente, che possono annoiare il lettore e limitano la figura di Isa, ciononostante, il numero ed il tipo di eventi prodigiosi che gli sono attribuiti, così come alcune affermazioni, come quelle presenti nella tavola imbandita, e le elenco. In verità, Isa non seguì alcun vizio, né mangiò avidamente alcunché, né proruppe in risate, né scacciò una mosca dalla sua faccia, né prese dal naso niente di niente, né commetteva eccessi. Tali affermazioni mostrano la considerazione e il rispetto portatigli, sia pure circoscritti alla sua persona umana. Malgrado ciò, questi atteggiamenti, considerazione e rispetto, bisogna constatare, sono stati per un lungo periodo di tempo forse troppo lungo, reciprocamente ignorati nei rapporti fra cristiani e musulmani. Quindi, grazie.